Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Avete sentito anche il nostro collegamento nel corso del giornale radio. Sono giornate movimentate in borsa per tanti motivi, non si schiarisce ancora la situazione greca, le borse probabilmente viaggeranno nell'incertezza ancora per diverse settimane, almeno fino a quando non si definirà o meno il piano di ristrutturazione del debito di Atene. E questo è al momento il tema di maggiore preoccupazione. Poi ci sono le storie particolari. Ieri Milano ha accusato la sua la peggior giornata in assoluto rispetto a tutta l'Europa, perché 26 società sul FTSE MIB hanno staccato il dividendo. Milano ha perso il 3,3%, lo stacco delle cedole pesava per l'1,9%. Oggi c'è stato un tentativo di recupero, lo vedo in questo momento che già viene annullato il FTSE MIB, e sulla parità sono ancora invece positive le altre borse europee. Abbiamo Parigi più 0,2, Francoforte più 0,6, Londra più 0,6%. Allora, gli operatori di Piazza Affari stanno tenendo sotto osservazione alcuni titoli, in particolar modo perché sono partite delle operazioni straordinarie. È partita l'offerta pubblica di acquisto dei francesi di Lactalis su Parmalat, ma è anche partito l'aumento di capitale di Banca Intesa San Paolo. Noi oggi focalizziamo la nostra attenzione proprio su questa operazione per intanto tornare a monitorare la questione dello stato di salute delle banche italiane. Ne avevamo parlato approfonditamente quando abbiamo raccontato la stagione dei dividendi e come si poneva in essere una relazione fra la decisione delle banche di emettere dei dividendi e contestualmente però lanciare appunto delle operazioni straordinarie come gli aumenti di capitale. E ne parliamo anche perché è importante per la borsa italiana questo argomento, visto che Piazza Affari ha una larga esposizione nel settore finanziario. Nel paniere principale sono quotati 8 istituti di credito, ci sono anche le assicurazioni, quindi un settore appunto molto, molto rappresentato nella borsa italiana. Oggi analizzeremo, come vi dicevo, l'aumento di capitale da 5 miliardi di Banca Intesa San Paolo, cercando di spiegarvi come funziona l'adesione da parte di un piccolo azionista, e poi cercheremo anche di capire come si muoveranno le altre banche fra indiscrezioni, operazioni annunciate pronte a partire, altre negate, e su tutto questo il monito sempre molto severo da parte del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che continua ad invitare molto caldamente le banche a proseguire sulla strada del rafforzamento patrimoniale. Buongiorno e bentornata Valeria Novellini, collega del Sole 24 Ore, analista finanziario dell'ufficio studi del Sole 24 Ore. Ciao Valeria, bentornata. Ciao, buona giornata a tutti. E bentornato anche ad Andrea Cattapan, analista dell'area risparmio gestitori Consultic, l'analista che già ad inizio anno ci aveva aiutato ad orientarci, ne eravamo venuti fuori a pezzi, almeno io, non lui di sicuro, nello spin-off del gruppo Fiat. Cattapan, buongiorno e bentornato anche lei. Grazie, buongiorno. Chiaramente microfoni aperti a voi ascoltatori all'800240024, in alternativa ci potete scrivere al 349-238-6666 o se volete all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Diamo un'occhiata un po' più nel dettaglio a questa seduta di borsa. C'è questo cambiamento di direzione improvviso di Piazza Affari, che dopo aver rimbalzato di quasi mezzo punto percentuale adesso torna a perdere terreno, meno 0,14% sul FTSE MIB, scendono di nuovo tutte le banche. Poco fa abbiamo saputo che Standard & Poor's ha tagliato l'outlook di 4 banche italiane a negativo, adesso vi dirò quale sono: Mediobanca, BNL, la stessa Intesa San Paolo e anche Findomestic, che in realtà è una società appunto del credito al consumo, e quindi su questo naturalmente giù tutto il comparto a Milano. In particolar modo, particolarmente forte è il ribasso della Banca Popolare di Milano, meno 3,59, di Monte dei Paschi, meno 3,26, del Banco Popolare, meno 2,57, Intesa, meno 2,13, Ubibanca, meno 1,73, Unicredit, meno 1,50. Insomma, un bollettino di guerra. Mediobanca, meno 0,9, tanto per completare il quadro delle banche. Chi resiste oggi dalle vendite sono TOTS, più 2,46%, Fiat, più 2%, appunto oggi è il giorno in cui saldiamo il debito e Chrysler riguadagna la propria indipendenza. Così l'amministratore delegato del Lingotto e anche di Chrysler, Marchionne, ha anticipato che il colosso di Detroit, parte del gruppo Fiat, annuncerà il rimborso dei 7 miliardi e mezzo di dollari che il gruppo deve al governo statunitense e canadese, quel prestito appunto che era stato fatto alla società per evitarne il collasso durante la crisi economica. L'appuntamento è per le 14:15 ora americana, 20:15 ora italiana, allo stabilimento di Sterling Heights in Michigan, dove è assemblata peraltro la nuova berlina Chrysler 200. Tra gli altri rialzi segnaliamo quello di Saipem più 2, Luxottica più 1,74, Exor, l'azionista di riferimento Fiat, più 1,65%, Autogrill più 1,59, abbiamo un rialzo di un punto per Enel Green Power ed Azimut. Però insomma giornata di nuovo storta per le banche, giornata di grande attivismo di nuovo anche per le agenzie di rating. Moody's ha fatto sapere che oggi diffonderà un report dove indicherà i possibili scenari di un default della Grecia, poi ha abbassato il rating sovrano di 18 istituzioni finanziarie della Gran Bretagna. Sulla Gran Bretagna oggi si è abbassata anche la scure dell'agenzia di rating cinese Dangong, che ha abbassato il giudizio sul debito sovrano appunto del Regno Unito. Che giornata, ragazzi! Noi lasciamo tutti i temi generali per andare nello specifico dell'aumento di capitale di Banca Intesa San Paolo. La prima a scendere in pista è stata Intesa San Paolo, che lunedì a Piazza Affari ha dato il via all'aumento di capitale da 5 miliardi di euro. Un'operazione che prevede l'emissione di 3,6 miliardi di nuove azioni ordinarie a 1,369 euro, offerte ai soci nel rapporto di 2 nuove azioni ogni 7, ordinarie o di risparmio, possedute. E dopo Cade Sass, a bussare alla porta degli azionisti saranno gli altri principali istituti italiani, eccezion fatta per Unicredit. UbiBanca, MPS e infine a settembre UbiBanca. Obiettivo delle ricapitalizzazioni, alla luce dell'invito alle banche del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, è alzare l'asticella dei coefficienti patrimoniali ben al di sopra dei livelli richiesti da Basilea 3, in modo da arrivare in forma per l'appuntamento con gli stress test attualmente in corso. Ma in che cosa consiste una ricapitalizzazione? L'aumento di capitale è un incremento del capitale di una società attraverso l'emissione di nuove azioni oppure attraverso un aumento del valore nominale delle azioni esistenti. Le nuove azioni emesse vengono offerte agli azionisti esistenti in proporzione ai titoli che questi possiedono. Rapporto di cambio, numero di azioni nuove assegnate per ogni vecchia azione. Ogni azionista, in base al numero di azioni possedute, può decidere se aderire all'aumento esercitando i propri diritti, chiamati diritti d'opzione, automaticamente acquisiti in base al numero di azioni possedute, oppure no, vendendo i propri diritti ad altri che possono aderire al suo posto all'aumento di capitale sociale. 800 24 00 24, vi ricordo sempre il numero verde per prenotare i vostri interventi se volete interagire con noi su questo argomento, oppure scriveteci alle 349 238 6666 o all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. Una prima considerazione con Valeria Novellini, ne parlavamo a microfoni spenti. Per la verità il governatore della Banca d'Italia ha fatto un po' più pressing su altre banche per effettuare un aumento, un rafforzamento patrimoniale, un aumento di capitale. Banca Intesa non era stata tra quelle particolarmente sottoposte a stress da parte di Via Nazionale, eppure questa banca ha ritenuto opportuno di procedere molto rapidamente su questa strada. Perché, Valeria? Beh, diciamo che per quanto riguarda le banche più stressate, come è noto, la principale è stata Banca Popolare di Milano, che alla fine comunque ha annunciato che l'aumento si farà e sarà di 1,2 miliardi. Per quanto riguarda Intesa, teniamo conto che il primo aumento a sorpresa è stato quello di UBI, è stato annunciato prima ma avrà luogo più tardi, di 1 miliardo, perché anche UBI non aveva particolari necessità di ricapitalizzazione. Qual è il punto? Almeno per quanto riguarda Intesa, sicuramente la banca, tramite le sue capacità di generare utili, avrebbe potuto comunque adempiere ai requisiti, perlomeno quelli richiesti da Basilea 3, che peraltro andranno a regime pienamente nel 2019. Avrebbe potuto arrivarci anche prima, la banca ha indicato il 2015, ma come? a patto di una politica di dividendi molto restringente e severa, quindi distribuendo pochissimi o nulla degli utili agli azionisti. Questa politica ovviamente non sarebbe stata gradita né ai piccoli risparmiatori e né chiaramente alle fondazioni e comunque ai soci principali azionisti di questa banca. Ecco, tra l'altro l'aumento di capitale, poi ne spiegheremo le condizioni, gran parte delle fondazioni principali azionisti di Banca Intesa San Paolo hanno fatto sapere appunto che aderiranno all'operazione, qualcuno si è chiamato fuori, poi lo ricorderemo, ma le condizioni dell'aumento di capitale, Valeria, secondo te rendono conveniente in relazione proprio poi al dividendo distribuito aderire all'operazione? Hanno fatto questo calcolo di convenienza evidentemente i grandi azionisti, no, per far capire anche se può essere un parametro consigliato anche ai piccoli risparmiatori per capire se è il caso di sottoscrivere o meno un aumento di capitale. Allora, diciamo innanzitutto che chiaramente chi aderisce all'aumento di capitale sulle nuove azioni non vedrà riconosciuto il dividendo dello scorso esercizio del 2010, ma per quanto riguarda le condizioni sono comunque favorevoli perché rappresentano, e anche tenuto conto dello stacco del dividendo, uno sconto del 22% circa rispetto ai prezzi ante aumento di capitale, quindi condizioni di prezzo favorevoli. Per il futuro, Intesa appunto anche tramite questo aumento intende continuare a distribuire dividendi con una limitazione, cioè potrà essere distribuito in termini di dividendo soltanto la quota di utile netto che sarà superiore al livello che consentirà a loro di mantenere un indice di capitalizzazione common equity, praticamente capitale ordinario, superiore o uguale al 10%. Quindi soddisfatta questa condizione? Il dividendo si continuerà ancora a distribuire? Sì, sicuramente. Con questa operazione comunque l'indice common equity si porta già al 9,4%, quindi diciamo che il 10% è un passo e di conseguenza ci dovrebbe essere una remunerazione. Non si può a questo momento sapere se è ancora in linea con quella degli ultimi esercizi, però un dividendo ci sarà. Tra l'altro il prossimo dividendo Banca Intesa lo mette in pagamento il 26 maggio, quindi fra qualche giorno, ed è quello per ogni azione ordinaria di 8 centesimi per azione e di 9,1 centesimi per ogni azione di risparmio. Andrea Cattapan, molti ascoltatori focalizzano l'attenzione proprio su tutto l'aspetto affrontato fino a questo momento. Un ascoltatore molto chiaramente chiede: potete spiegare il senso di fare un aumento di capitale, distribuire il dividendo, non basterebbe cancellare il secondo? Lei ci vuole dire la sua su questi aspetti? Il senso di distribuire il dividendo in questo momento è intanto far contente le fondazioni che sostengono l'aumento di capitale e anche la società, certo. Perché quando c'è da sborsare dei soldi, diciamo, le fondazioni sono le prime che devono impegnarsi talvolta con esborsi niente male. Poi ci sono anche i fondi di investimento che anche loro hanno degli interessi partecipando direttamente nell'azionariato di Banca Intesa, e il dividendo comunque è un segnale che si dà al mercato di buona salute della società, nel senso che questo anche nel 2007, magari quando non era il caso, molte banche hanno continuato a erogare dividendi per dare segnali di fiducia al mercato. Questi segnali di fiducia a cosa servono? Servono per ottenere dal mercato magari dei finanziamenti più a costo contenuto. E quindi diciamo c'è anche questo fattore da considerare. Allora, io la ringrazio per la sua analisi. Intanto andremo adesso nella seconda parte della trasmissione ai dettagli dell'aumento di capitale per capire come funziona, per ricordarlo anche agli ascoltatori che magari sono azionisti di questa banca ma non sanno che c'è questa operazione che è partita e magari arriverà a loro, è già arrivata una lettera con queste comunicazioni, non sanno che farne, non hanno capito bene che cosa stia succedendo. Allora noi oggi tenteremo di spiegarvelo in termini semplici. 800 24 00 24 numero verde per le vostre domande. Già pronto anche Roberto da Venezia, qui chiedo qualche istante di pazienza e ritorniamo tra pochissimo. Oggi a Salvadanaio parliamo di operazioni straordinarie sul capitale, in particolar modo di quelle che le banche italiane stanno effettuando. È partito ieri l'aumento di capitale da 5 miliardi di Banca Intesa San Paolo, con un prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni per i vecchi azionisti di 1,36 euro. L'offerta, vi do le indicazioni di base, prevede l'assegnazione di 2 nuove azioni ordinarie ogni 7, ordinarie appunto o di risparmio possedute. Allora, Andrea Cattapane, nostro analista finanziario di Consultica, insieme a noi anche Valeria Novellini dell'Ufficio Studi del Sole 24 Ore, volevamo appunto capire il funzionamento di questo aumento di capitale per spiegarlo ai piccoli azionisti, in particolar modo perché le fondazioni, i grandi azionisti hanno ben chiaro come funzionano questi, quali sono le dinamiche appunto di queste grandi operazioni. Allora, per chi avesse in portafoglio, tanto per fare qualche calcolo, 100 azioni di Intesa San Paolo, se ne vedrà riconoscere 2 nuove, ribadiamo ancora, ogni 7 azioni possedute, per cui intanto un calcolo di nuove azioni è facile farlo, no? Cattapan. Sì, se avevamo 100 azioni ci saranno stati attribuiti 100 diritti, ogni 7 diritti ho la possibilità di sottoscrivere 2 azioni, pagando il prezzo di sottoscrizione di 1,369 euro per azione. Ecco, ha fatto bene a citare la parola diritti, perché noi in realtà ancora non abbiamo materialmente, dobbiamo decidere di farlo o meno, in possesso le nuove azioni che l'aumento di capitale ci darebbe appunto il diritto di avere. Abbiamo il diritto di esercitare o meno questo aumento di capitale, però anche i diritti si negoziano in borsa. Esatto, sono quotati e quindi hanno un loro corso autonomo, diciamo. Sono nati lunedì, quando è iniziato l'aumento di capitale, quindi venerdì avevamo l'azione pre-aumento di capitale. Da lunedì abbiamo 2 entità, l'azione ordinaria che continua a quotare normalmente, in più abbiamo il diritto di opzione. Nel dossier titoli dei risparmiatori a questo punto ci sono 2 cose che danno, diciamo, in caso dei diritti, danno la possibilità di partecipare all'aumento di capitale. Ecco, tra l'altro ieri il diritto di opzione ha perso più del 22% in borsa, poi vi do anche la quotazione 0,09 euro, e spiegavano appunto alcuni suoi colleghi che questo calo è stato dovuto al fatto che ieri hanno immediatamente venduto tutti coloro che non hanno intenzione di aderire all'aumento di capitale, pertanto si sono immediatamente disfatti di questo diritto di opzione appunto ad aderire all'operazione straordinaria. Questo è il meccanismo Cattapan? In parte direi, in parte sicuramente chi non partecipa all'aumento di capitale vende i diritti e quindi incassa del cash, della liquidità. In realtà il valore del diritto di opzione è legato a doppio filo col valore dell'azione, nel senso che più mi avvicino al livello in cui ho il prezzo di sottoscrizione, quindi 1,369, più il diritto vale meno, perché il diritto mi dà appunto la possibilità di acquistare un qualcosa a un prezzo minore rispetto al prezzo di mercato che è più alto. Se i due prezzi si avvicinano, è ovvio che questa possibilità perde di qualsiasi valore. Ma certo che il meccanismo della relazione fra il prezzo di azione delle nuove azioni che vengono riconosciute nell'aumento di capitale e il diritto d'opzione è un aspetto un po' complesso. Roberto dalla provincia di Venezia, credo che volesse chiedere qualcosa proprio a questo proposito. Abbiamo già chiarito i suoi dubbi. Roberto, buongiorno. Penso che proprio avete già chiarito i dubbi, perché volevo capire appunto come si determinava il valore, però volevo chiederlo anche se vale per tutte le banche anche non quotate. E perché le interessa? Perché se uno non vuole esercitare il diritto all'aumento del capitale di una banca non quotata, no? In borsa, se il diritto, se il meccanismo ha un valore è lo stesso. Grazie Roberto. Valeria, tu mi sai aiutare su questo aspetto? Valeria Novellini. Allora, diciamo che se la banca non è quotata, normalmente questi aumenti che vengono proposti sono proposti con dei prezzi che sono piuttosto favorevoli, non c'è un prezzo di mercato neanche per l'azione, ma vengono fissati ogni anno dei prezzi determinati per il riacquisto, sempre dalla parte della stessa banca, ripeto, non c'è un prezzo di mercato per il riacquisto di queste azioni. Quindi anche per quanto riguarda questi nuovi titoli vengono offerti a un prezzo conveniente in modo che gli azionisti possano aderire. Non essendo qui quotato il diritto in borsa, sta chiaramente alla banca emittente fissare lei un prezzo di mercato, o meglio un prezzo non di mercato ma proprio deciso dalla banca stessa per questi diritti che hanno sicuramente un valore, ma è un valore molto teorico, perché appunto non esiste un prezzo di mercato per il titolo. Normalmente comunque non c'è un prezzo vero e proprio di mercato per questi diritti, ma semplicemente c'è l'offerta di nuove azioni a cui un azionista decide di aderire o meno. Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666 che ci chiede: sono curioso di sapere cosa farà il Crédit Agricole, che è un azionista di Banca Intesa San Paolo con una quota del 4,9%. Sottoscriverà o meno l'aumento, ci chiede l'ascoltatore. Questa circostanza la riportano molti giornali. Valeria, mi pare che questo azionista insieme ad un altro gruppo non aderirà all'operazione. Sì, infatti Crédit Agricole ha già manifestato l'intenzione di non aderire all'operazione. Non aderiranno inoltre all'operazione la Fondazione Cariparma, che detiene circa l'1,2% del capitale sociale, e la società Carlo Tassara, che detiene attualmente il 2,26% del capitale sociale. A queste figure che non aderiscono all'aumento di capitale, perché questa è una situazione che si può spiegare anche ad un piccolo azionista che non vuole aderire all'aumento di capitale ma vuole mantenere la quota azionaria che già ha, sicuramente molto più modesta rispetto a questi grandi azionisti, però che cosa succede? C'è questo effetto diluizione, si chiama in gergo finanziario, vero Valeria? Esatto, c'è l'effetto diluizione, perché aumentando il capitale e quindi il numero di azioni esistenti della banca, in questo caso Intesa San Paolo, se io detengo però lo stesso numero di azioni di prima perché ho rifiutato di acquistare quelle nuove, in percentuale la mia quota azionaria si diluirà. Evidentemente a questi azionisti, e a maggior ragione penso a un piccolo azionista che già comunque ha una quota poco rilevante, non interessa questo. È interessante però il fatto di poter almeno monetizzare i diritti. Ah, ricordo una cosa: è vero che il prezzo del diritto è legato anche al prezzo dell'azione che fa in borsa, ma siccome le banche automaticamente vendono tutti i diritti non esercitati dei clienti negli ultimissimi giorni dell'aumento di capitale, proprio per evitare che questi si vedano completamente azzerare il valore del diritto, chi è ben sicuro di non voler aderire all'aumento di capitale farebbe meglio a venderli nei primi giorni di aumento di capitale, perché altrimenti negli ultimi giorni arrivano sul mercato questo grosso quantitativo di diritti inoptati. E quindi si fa più fatica eventualmente a venderli? Più che altro scendono molto i prezzi. Scendono i prezzi, anche perché chiaramente per chiudere l'operazione poi sicuramente i diritti si vendono, però ecco, c'è questo effetto di rompente e negativo sulle quotazioni. Ancora tornando ai diritti di opzione, Giancarlo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Grazie. Io avevo un dubbio. Sì. Io ho 3.000 azioni, sì. Cioè praticamente ho 3.000 diritti, posso vendere? Ah, se il calcolo è così automatico, parallelo. Sì. Andrea Cattapan, ad ogni azione corrisponde un diritto di opzione? Certo, che sia un'azione ordinaria o di risparmio. Di risparmio. Allora, tra l'altro lui non ha completato la domanda, ce l'avevo in anteprima, come può fare a venderli? Banalmente si deve rivolgere all'intermediario presso il quale ha fatto la sottoscrizione appunto del pacchetto azionario in suo possesso dei titoli Banca Intesa San Paolo. Allora, ancora qualche minuto di tempo prima di andare ai suggerimenti per chi è in viaggio. Tra l'altro c'è un ascoltatore che non è a tema con quello che stiamo spiegando questa mattina, ma in qualche maniera sì, collega, stava guardando con preoccupazione alla riduzione di giudizio che Standard & Poor's ha fatto su quattro banche italiane, e dice: perché se il giudizio riguarda solo quattro banche calano tutte? Non lo trovo un mercato di matti, Sergio, lo trovo un mercato di matti per tante altre ragioni, però Valeria, questo succede diciamo anche abbastanza frequentemente, no? Che se un giudizio negativo colpisce anche un solo titolo, una sola società, generalmente è un po' tutto il settore che ne risente. Questo è sicuramente vero. Per quanto riguarda queste quattro banche, bisogna tener conto che almeno su due di queste Standard & Poor's aveva già annunciato il downgrading quando ha annunciato l'outlook negativo per l'Italia. Quindi era in parte una notizia annunciata, però il motivo per cui scendono tutte, non solo quelle diciamo così che hanno avuto il downgrading, è semplicemente il fatto che il motivo del downgrading è dovuto alla debolezza dell'economia italiana e quindi le prospettive di queste banche. E se l'economia è debole per queste banche, lo è sicuramente anche per tutte le altre. Eccoci qua. E intanto, tra l'altro, poi proprio per continuare a parlare di aumenti di capitale, siccome le tre banche che scendono di più in questo momento sono quelle che saranno interessate a queste operazioni al più presto, anzi no, per il Banco Popolare l'operazione si è già già chiusa, è già stata fatta, però per la Popolare di Milano si svolgerà in autunno, per Monte dei Paschi invece si parte a luglio. Magari vi daremo qualche anticipazione sulle condizioni di queste operazioni, non si conoscono ancora, però magari cercheremo così un po' di immaginarle. A tra poco. Non premo neanche il microfono correttamente. Banche italiane, oggi parliamo dell'aumento di capitale di Banca Intesa San Paolo, partito ieri. Peraltro possiamo ricordare anche Andrea Cattapane, nostro analista, che insieme a Valeria Novellini stamattina ci stanno spiegando il funzionamento di queste operazioni. Allora, quando termina peraltro l'aumento di capitale di Banca Intesa? Ho letto che i diritti possono essere esercitati fino al 10 giugno. Ah, poi c'è anche questa cosa da spiegare, però vengono negoziati in borsa fino al 3 giugno. Perché c'è questa differenza? Allora, fino al 3 giugno avremo effettivamente la quotazione sul mercato, quindi saranno negoziabili. In realtà poi c'è tutta una fase tecnica in cui bisogna vedere chi ha aderito e se è stato coperto interamente il quantitativo offerto. Nel caso in cui non sia così, di solito viene riofferto l'inoptato, quindi ciò che non è stato scelto per partecipare all'aumento di capitale, e poi si arriverà al 10 giugno in cui ci sarà la consegna fisica delle azioni e solo in quel momento terminerà l'aumento di capitale. Tra l'altro, quando il gruppo ha comunicato il prezzo a cui avrebbe effettuato questo aumento di capitale, quindi a cui avrebbe attribuito queste nuove azioni a chi avesse sottoscritto l'aumento, ha fatto sapere appunto che il prezzo stabilito era di 1,36 euro, con uno sconto del 24% rispetto alle quotazioni di borsa recenti. Si effettua una media statistica e evidentemente poi si sceglie una quotazione. Peraltro, Andrea Cattapanno, una quotazione a sconto di circa il 24%, generalmente gli aumenti di capitale di tutti i settori, qui parliamo di banche, ma ogni volta che vengono effettuati, vengono sempre effettuati a sconto per rendere l'adesione più appetibile? Sì, generalmente sì, anche perché ciò invoglia gli azionisti a partecipare, quindi vedendo di poter sottoscrivere le azioni a un prezzo minore rispetto a quello di borsa, partecipano all'operazione e si ha una probabilità molto più alta della riuscita della stessa, anche perché, bisogna ricordarlo, un aumento di capitale è un modo che hanno le società, in questo caso una banca, per raccogliere dei capitali, quindi un qualcosa che effettivamente serve loro per rafforzare il patrimonio o comunque il proprio bilancio. Certo, quindi lo devono rendere evidentemente allettante. Allora, Donato da Pisa, buongiorno. Buongiorno, sono Donato da Pisa. Volevo fare questa domanda, visto che state parlando di aumento di capitale di Banca Intesa. Sì. Avendo acquistato dei titoli proprio ieri, sì, ho diritto a partecipare all'aumento di capitale oppure no? Mi sa proprio di no, Donato. Valeria? E decisamente no, perché dalla data di ieri le azioni quotano ex diritto, quindi non hanno più attaccato e proprio materialmente, nel senso che è una cedola, anche se adesso i titoli sono stati smaterializzati, non hanno più attaccato il cosiddetto diritto di opzione, quindi queste azioni rimangono così. Del resto sono state già acquistate chiaramente a un prezzo inferiore a quello che poteva essere venerdì, quando ancora il diritto aveva un valore unito a quello dell'azione, perché era ancora attaccato. E oggi le potrebbe acquistare anche ad un prezzo ulteriormente inferiore, perché il titolo sta perdendo l'1,65%, l'ultimo prezzo è 1,66 euro, quindi diciamo che questo sconto dell'aumento di capitale si è ridotto ulteriormente. Allora, Valeria, avevamo preannunciato prima che avremmo parlato anche di altri aumenti di capitale in programma, diciamo così, sulla rampa di lancio. A metà giugno parte quello di UbiBanca, 1 miliardo di euro. Le condizioni ovviamente non si conoscono. Quanto tempo prima in genere una banca, qualsiasi altra società che fa un aumento di capitale, le comunica? Proprio a ridosso, perché credo che quelle di Intesa San Paolo siano state comunicate venerdì scorso. Sì, sono state comunicate il 19 maggio. Può capitare qualche volta che vengano comunicate un po' più in anticipo, però tendenzialmente non molto prima, proprio perché si vuole lasciare l'effetto sorpresa di sapere quanto è effettivamente lo sconto che viene concesso agli azionisti per l'acquisto delle nuove azioni. Allora, abbiamo detto UbiBanca a metà giugno, ad inizio luglio toccherà Monte dei Paschi. Quanto farà l'aumento di capitale? Intorno ai 2 miliardi e mezzo, no? 2 miliardi. I 2 miliardi e mezzo si arriva con un'altra operazione, che è il riacquisto di obbligazioni in essere dello stesso Monte dei Paschi. In realtà questo aumento, così come quello che è già avvenuto a gennaio del Banco Popolare, sono aumenti che corrispondono praticamente all'ammontare dei cosiddetti 3 Monti Bond che queste banche avevano sottoscritto in precedenza per rafforzare il patrimonio. Quindi per Banco Popolare e Monte dei Paschi sono aumenti sostanzialmente finalizzati a sostituire i Tremonti Bond con vero e proprio capitale sociale. E poi c'è il caso della Popolare di Milano che abbiamo già spiegato. Unicredit, qui c'è proprio, come dire, non un giallo, c'è solamente una questione di opportunità, diciamo, sul momento e se come fare questa operazione che al momento non dovrebbe essere fatta. L'amministratore delegato del gruppo Ghizzoni lo ha ribadito più volte, ma che cosa potrebbe aspettare Unicredit ad alzare le carte? Valeria. Aspetta novembre. Questo lo hanno già affermato, perché a novembre il G20 deciderà quali sono le 30-40, si pensa a questo numero, banche europee denominate SIFI, che cioè sono le banche sistematicamente importanti, cioè troppo grandi per fallire. Grandi per così a livello, dire. Le big, too big to fail. A livello europeo. Per queste banche... Diciamo banche di importanza sistemica, ecco, forse esatto, abbiamo trovato la... Esatto. Vengono chiamate SIFI per lo più perché è la sigla in inglese. Per queste banche, diciamo, saranno richiesti dei requisiti patrimoniali superiori rispetto alle altre banche e saranno anche requisiti graduati a seconda della grandezza. Siccome Unicredit, come anche Intesa, sono probabilmente le uniche due banche italiane che saranno incluse in questa lista, ecco che a questo punto Intesa ha voluto cogliere tutti d'anticipo mettendosi avanti anche ai requisiti che potranno essere chiesti. Unicredit, che peraltro al momento ha dei requisiti patrimoniali più elevati, quindi può permettersi di aspettare un pochino rispetto alla patrimonializzazione di Intesa, che comunque non era anche questa richiesta immediatamente. Ecco, Unicredit ha detto che aspetta novembre per sapere se sarà una SIFI e di preciso quale requisito patrimoniale le sarà chiesto. Ricordiamo anche che dall'inizio della crisi Unicredit ha già varato due operazioni appunto sulle capitali molto, molto importanti. Allora, un'ultima domanda prima dei saluti la faccio ad Andrea Cattapan, prendendo a spunto un'osservazione di un ascoltatore e magari prendendo anche a spunto quanto ci ha chiesto Donato da Pisa, che come dire, ha acquistato ieri i titoli Intesa, non ha adesso l'opportunità di aderire all'aumento di capitale, ma magari se volesse farlo Cattapan potrebbe per esempio acquistare dei diritti di opzione inoptati da qualcun altro? Esiste un mercato anche per il piccolo risparmiatore di questo ambito? Sì, dovrebbe semplicemente acquistare dei diritti sul mercato, quindi pagando un prezzo. A questo prezzo poi andrà sommato quanto spenderà per aderire, quindi il famoso 1,369, e ciò rappresenta l'esborso complessivo per partecipare all'aumento di capitale di Intesa San Paolo. Fare questo però è assolutamente equivalente all'acquisto diretto delle azioni, in quanto essendo un'azione molto liquida e essendo trattato a mercato sia il diritto sia l'azione, non c'è granché possibilità di arbitraggio, sia di convenienza di una modalità rispetto ad un'altra per diventare azionista Intesa San Paolo. Avremmo dovuto spiegare anche il termine arbitraggio, non ce la facciamo oggi, rimandiamo ad un'altra puntata, tanto visto che di aumenti di capitale ne sono in programma tanti altri, sono molto importanti, molti piccoli azionisti sparsi sul mercato che hanno necessità appunto anche di avere qualche chiarimento su questo. Io però intanto ringrazio moltissimo Valeria Novellini e Andrea Cattapan per essere stati con noi, Gaia Romani per la collaborazione in redazione, il gamberetto Roby Scaltritti oggi in assistenza tecnica. Noi torniamo domani, avremo con noi il nuovo presidente dell'ANASF, l'associazione Nazionale dei Promotori Finanziari. Da Deborah Rosciani, buona giornata.